Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Oggi ci occupiamo del cosiddetto calendario dei divieti, cioè dei giorni nel corso dei quali il transito dei mezzi pesanti è interdetto, di un tavolo aperto tra auto Brennero e autotrasportatori per mettere a punto una serie di iniziative e quindi un focus sui furti di rame lungo le strade che rischiano di pregiudicare la sicurezza. In primo piano quindi il calendario dei divieti, cioè dei giorni in cui il transito dei mezzi pesanti è interdetto per non interferire con il traffico cosiddetto leggero. Ad agosto in tutto sono state 9 le giornate nel corso delle quali è scattato lo stop e l'ultima è stata ieri. Da tempo ormai il mondo dell'autotrasporto propone un approccio diverso alla questione, in sostanza sollecita più flessibilità nell'applicazione dei divieti nel corso dell'anno. Fuori discussione i fine settimana tradizionalmente caratterizzati da un elevato flusso dei veicoli, pensiamo per esempio a quelli estivi o sotto le feste di Natale o ai ponti di primavera, un discorso diverso riguarda quei mesi durante i quali la circolazione non è particolarmente intensa. In vista della definizione del calendario dei divieti per il 2017, il prefetto Roberto Sgalla, capo delle specialità della polizia, compresa quindi la stradale, apre ad un sistema di limitazioni più elastico, cioè più tarato sugli effettivi volumi di traffico. Ascoltiamolo al nostro microfono. Tutti lo sanno che io sono uno dei fautori di allargare il tema non dei divieti ma dei permessi. Cioè io credo che per esempio per molte domeniche all'anno, gennaio, febbraio, non vedo perché i camion non possano viaggiare domenica. So che qualche volta questo è un atteggiamento che viene contrastato anche dall'associazione dei consumatori, ma io credo che il problema vero è non far viaggiare nei momenti topici, e cioè chiaramente esodi, domeniche particolarmente vocate al turismo, l'estate, ma ci sono altri periodi in cui assolutamente la domenica c'è molto meno traffico in autostrada dei giorni feriali, per cui potrebbero tranquillamente viaggiare. Io mi auguro che il nuovo codice della strada apra questa possibilità, dia un elemento di liberalizzazione, dopodiché il Ministero dei Trasporti, d'intesa col Ministero degli Interni, definisca un calendario che sia coerente con le aspettative. D'altronde oggi l'esempio l'abbiamo con l'industria della Fiat, anzi dell'FCA Amelfi. È un'industria che lavora H24, che lavora a ciclo continuo, che non ha più magazzino. Ogni giorno entrano centinaia di autocarri, dal lunedì alla domenica. Come dicevamo, per gli autotrasportatori un calendario dei divieti impostato su rigidità che non tengano conto delle specificità dei vari periodi determina conseguenze sulla pianificazione e l'organizzazione dei trasporti con aggravi di costi. Ma sentiamo come la pensano le associazioni dell'autotrasporto sul calendario dei divieti. Abbiamo sentito Massimo Bagnoli, presidente di FIAP, la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. Come tutti gli anni ci troviamo di fronte a dover discutere su un calendario che sciolga un pochettino i laccioli della rigidità. E un calendario come il nostro in un paese come questo consente a chi non rispetta le regole di avere sostanzialmente un vantaggio, in quanto i controlli sono quelli che sono e quindi chi vuole circolare circola, mentre quelli che rispettano le leggi non circolano. I danni che hanno le aziende più virtuose, quelle sono abituate a rispettare le regole, sono ovviamente quelle di mancati fatturati e mancati viaggi che possono fare, al cospetto invece di coloro che delle regole se ne interessano meno e possono circolare. Anche rispetto ai nostri competitor stranieri abbiamo un calendario che non ha nessun senso, non ha nessun significato. Quindi io mi auguro che quest'anno, visto che le promesse sono sempre state fatte, si liberino almeno su quelle strade dove non sono coinvolte dai grandi esodi, si lasci circolare tranquillamente l'autotrasporto. Un discorso nel discorso riguarda le fasce orarie dei divieti che in alcuni casi nello schema attuale sono anticipati. Sentiamo ancora Bagnoli. Abbiamo le mezze giornate che non hanno veramente senso. La mezza giornata di fermo, il fermo fatto alle 16 del pomeriggio comporta la perdita di un'intera giornata lavorativa. In nessuna attività economica ci sono queste restrizioni, anzi per la verità nelle altre attività economiche stiamo assistendo all'esatto contrario, dove si liberalizza sempre più l'orario di lavoro, si lascia più la facoltà agli operatori di utilizzarlo come meglio credono. Insomma, in un paese che deve crescere queste cose sono anacronistiche. Ci trasferiamo ora sull'auto Brennero, una direttrice fondamentale tra l'Italia e il centro Europa. Basti pensare che ogni anno al valico di confine tra Italia e Austria transitano 2 milioni di TIR, un numero oltretutto in crescita, come sentiremo, che abbiamo imparato ormai bene da mesi sull'onda della minaccia di Vienna di stringere i controlli. A proposito, sulla conca del valico i lavori per la realizzazione della barriera si sono conclusi alla fine di luglio. La polizia tirolese ha detto che a questo punto basteranno 2 giorni per tirare su il reticolato nel caso di un afflusso non più controllabile di migranti. Le conseguenze sul fronte umanitario della circolazione delle merci all'interno dell'Europa sarebbero pesantissime, con un effetto domino su tutto il sistema economico del nostro paese, un concetto e un rischio che viene ripetuto da tempo e da più parti. Tornando all'autostrada, la direzione dell'A22 ha aperto un tavolo tecnico con i rappresentanti del mondo dell'autotrasporto per affrontare insieme una serie di questioni. Una di queste è la necessità di migliorare la comunicazione rivolta a chi transita lungo i 315 chilometri dell'auto Brennero. Al nostro microfono l'amministratore delegato dell'A22, Walter Pardaccher. Non sempre è sufficiente, e questo è giusto, informare gli autotrasportatori, ma bisogna fare particolare attenzione a trovare dei canali per informare gli autisti stessi. Esistono ancora oggi degli autisti che per la prima volta vengono in Italia o per la prima volta utilizzano l'auto Brennero con il suo, per esempio, divieto di sorpasso per i mezzi pesanti. Dunque è necessario e opportuno informare tutti affinché poi non ci siano delle contravvenzioni date proprio dal fatto della disinformazione. Un'altra questione importante riguarda le aree di sosta. Da tempo le associazioni degli autotrasportatori chiedono più spazio lungo l'autostrada anche alla luce di un progressivo aumento dei transiti dei mezzi pesanti. Secondo i dati diffusi alla fine di luglio da un giornale tirolese, nei primi 6 mesi del 2016 al valico del Brennero si è registrato un incremento pari all'8,2% rispetto allo stesso periodo del 2015. Se questo trend sarà confermato, alla fine del 2016 sarà superata la soglia dei 2 milioni e 100.000 mezzi pesanti in transito al valico. Ancora Walter Pardaccher. Per noi è un tema molto importante, perché c'è assolutamente la consapevolezza che servono tanti stalli lungo la 22, anche distribuiti abbastanza bene, perché in effetti l'autotrasportatore, l'autista, ha la necessità in molte occasioni di fermarsi a breve, e dunque questo rientra nei programmi di A22 già da tempo, e non per niente anche in questi ultimi mesi sono stati portati avanti dei progetti importanti di aree di sosta, uno in particolare proprio a Rovereto, che sta per essere aperto, ma poi anche Valdaro e via dicendo, poi lungo tutto l'A22 dei posti in più per poter garantire i parcheggi necessari agli autotrasportatori. Nello speciale che è andato in onda venerdì scorso non ci siamo occupati solo di furti e rapine e danni dei mezzi pesanti, ma anche di un fenomeno, chiamiamolo così, predatorio, che va in scena lungo le strade, in particolare quelle a scorrimento veloce. Cosa succede? Succede che su queste strade imperversano bande di predoni a caccia del cosiddetto oro rosso, cioè del rame con il quale sono fatti i cavi. Scarnificarli significa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture, pensiamo per esempio alle gallerie. Ne abbiamo parlato con Roberto Mastrangelo della direzione di esercizio di ANAS. Potremmo arrivare alla necessità di dover chiudere una galleria. C'è successo sul GRA, il grande raccordo anulare di Roma, e la Roma-Fiumicino, che è un'arteria fondamentale, di dover parzializzare le gallerie, perché il mancato funzionamento degli impianti di ventilazione ci ha costretto a ridurre il numero dei veicoli che potevano circolare in galleria. Quindi abbiamo dovuto parzializzare la carreggiata. Si può arrivare alla chiusura in gallerie lunghe che hanno impianti antincendio che sono necessari e fondamentali per il funzionamento della galleria stessa. A fronte di questo assalto sistematico, ANAS ha dovuto correre ai ripari. Ancora l'ingegnere Roberto Mastrangelo. Abbiamo la necessità innanzitutto di nascondere questi impianti alla vista, quindi di realizzare cavi dotti interrati che con pozzetti anti-effrazione, ma a loro volta difficilmente individuabili.